grazie a Dio è venerdì, i lupi sono liberi, fuori con le mie lady, stacchi da vertigini, oro sul collo, oro sul lobo come Mr. T, schiacciando i cuori degli scapoli col tacco 15, prima nel pub alzano i gomiti, alleluia, ora nel club piovono uomini, alleluia, tutti carichi, il club si muove a rallenting, è colpa dell'hip hop, forse è colpa di sto shop, con un alibi nuovo, buoni propositi a robo, ballo sotto la strobo, siamo sobri ancora per poco, Cupido spara frecce avvelenate, un'altra stella cade, la coscienza riposa in pace, io faccio i numeri come la fine del millennio, se faccio i numeri io finisco lo stipendio, forse domani me ne pento, vado a rilento, la diavola veste di rosso, disco inferno, i muri cadono come il domino, stasera cade il locale, voglio farmi male, inizia lo spettacolo, i muri cadono come il domino, le stelle cadono, se questo è il gran finale, voglio farmi male, cadiamo come il domino, oh oh oh oh oh oh oh oh oh. DJ spinge il bass, ladies fanno il booty shake, ballo come fossi nera bianca fuori Michael J, le mie ragazze tengono le caramelle, stanno addosso come tatuaggi sulla pelle, animali da locali, qua sembra una giungla, se vede una curva urla come allo stadio in curva, casino come gli hooligan, il richiamo di Tarzan, wild boy, come i Duran Duran, i ragazzi perduti sono tutti potuti, io cerco Peter Pan, voglio volare tra le luci, stanotte sono tutti single a modo proprio, stasera fanno bingo i fidanzati, il giorno dopo 100.000 foto nel locale, le fidanzate il giorno dopo sono tutte sgamate, sarà colpa della vodka o colpa della musica, hai un alibi per ribaltare il club, beh usala, i muri cadono come il domino, stasera cade il locale, voglio farmi male, inizia lo spettacolo, i muri cadono come il domino, le stelle cadono, se questo è il gran finale, voglio farmi male, cadiamo come il domino, oh oh oh oh oh oh oh oh.